vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ma tu dici, io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Ce vado io, non avete mai lavorato in vita vostra, andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Quanto rumore per due manganellate, per due botte, no, per due colpi, quanto rumore, quanto rumore. Quando le persone vanno a fare una manifestazione, e quando mia. Stai tranquillo, stai calmo, fammi parlare. Allora, quando le persone vanno a fare una manifestazione, fammi incazzare. Ma non c'è bisogno di arrabbiarsi. Quando le senti, le stupidaggini non le dico, sto dicendo. Sto dicendo quello che penso, stai calmo. Allora, quello che penso è molto semplice. Quando le persone vanno a fare una manifestazione e poi vogliono andare in zone dove non è possibile andare, perché la polizia dice, non che quello che dica la polizia sia sempre vero, ovviamente, però sembra che volessero andare in zone dove non è consentito andare. I poliziotti poi reagiscono. E oggi a Roma è successo questo. Sì, è scappata qualche manganellata. Non qualche c'è dubbio. Manganellata. E vabbè, qualcuno è stato c'è picchiato. Stata la mano pesante. Ma la mano pesante. Ma tu la mano pesante, ma lo sai che cos'è la mano pesante? Gente che merita rispetto. Sono non sono dei criminali, è gente che ha perso il lavoro. Beh, che c'entra? Non sai neanche cosa che vuol c'è? Dire. Ma che c'entra? Ma cosa? Ma se tu questo ti consente di andare in piazza e andare certo, ma sono cose che succedono, ma sono due manganellate, sono cose che succedono, la gente con la coltanza certo, sulla testa. Certo, quando tu vuoi andare in un posto dove non puoi andare, sei evidente. Ma no, ma è normale, succede in tutti i posti, succede ovunque. Se tu succede vuoi andare. Ha usato la mano pesante. Ma quale mano in questo pesante? Caso. Ma in Italia perché quelli non sono criminali, non sono ma terroristi. Che c'entra che non sono criminali? Anche io quelli non sono un criminale, ma sono se devo persone che vabbè, hanno fammi sentire Landini. Delle cose vergognose. Ma quale vergognose? Dico quello vergognose. Che penso e sono le cose che pensano ma tutti. Ma sono cose schifose. No, schifose, stai calmo. Schifose, stai calmo. Schifose, aberranti, stai calmo. Landini, aberranti, va bene. Aberranti, parla, aberranti. Parla, chiacchiera. Chiacchiera. Ah, che violenta. Ma quale violenta? Sentiamo. Sei una persona violenta. Sì, non solo una parola, in questo caso. Va bene. Ma io non sto incitando nessuno. Ho detto che sono cose che accadono. Senti, mi togliete un attimo il microfono a questo qui che dice delle cose inesatte su quello che ho detto. E fatemi sentire Landini, dai. Questo paese esiste perché c'è la gente che lavora. Dovrebbero chiedere scusa alla gente, capisci? Altro che palle, Leopolde e cazzate varie. Basta, basta slogan, basta. Hanno rotto le scatole, questo è il problema. Allora, detto con tutto il rispetto per le autorità politiche, civili, militari, io vorrei capire il nesso tra il signor Matteo Renzi e la reazione della polizia in piazza oggi. Perché cosa c'entra la Leopolda, le cazzate? Qui c'è un'avvertenza, è per quello che erano in piazza, che riguarda Terni, le acciaierie. Va benissimo, tutto quello che volete, un'avvertenza infinita su un'azienda che dovrebbe chiudere e che i lavoratori ovviamente non vogliono che chiuda. Dopodiché sono andati in piazza. Evidentemente è successo qualcosa, ma soprattutto stavano per andare in zone dove non dovevano andare. La polizia ha reagito, magari ha reagito in maniera eccessiva, ma quando vai in piazza e fai delle cose che non vanno bene, ti puoi beccare qualche colpetto, qualche colpettino, nessuno. Sangue, poi cosa vuoi che sia il sangue, ancora Landini. Il governo deve rispondere adesso, siamo noi che paghiamo le tasse, paghiamo questi e paghiamo quelli che sono là, basta. Avete al ministero Landini. Certo, ma anche il governo. Dico una parola alla presidenza del Consiglio, anziché fare slogan del cazzo, dico una parola di quello che sta succedendo. Che si vergognino, ci hanno a chiedere scusa ai lavoratori. Scusa ci hanno a chiedere. Vabbè, mi sembra un po', come dire, un po'... caldo, Landini, mi sembra. Cosa c'entra Renzi? Non c'entra, c'entra Alfano che deve rispondere. Ma vabbè, risponderà alle interrogazioni parlamentari, la solita chiassata italiana per il nulla, dai, su nulla, due manganellate, dai, succede, due manganellate, bravo, dai. Bravo, due manganellatine, bravo. Dai, via. Bravo, dai, ancora bravo. Landini, dai. Violento, violento. Io non sono violento, smettila di dire questa cosa, non dire cazzate. E dobbiamo prendere anche le botte, noi che paghiamo, noi che lavoriamo, dobbiamo essere anche picchiati da chi? Da altre persone che per vivere debbono lavorare? Ma che diano gli ordini di colpire quello che c'è da colpire? Cazzo, in un paese di ladri, di gente che evade, di corruzione, se la vengono a prendere con gli unici onesti? Ma dove cazzo siamo messi? Basta, Beh, qualche voce, mi sembra che Landini sia sufficiente un po' a, a chiarire alcune posizioni, mi sembra anche un po' esaltato. Un semplice fatto di piazza viene ricondotto a, a, al governo, la Leopolda, Renzi, che non c'entra una mazza, non c'entra una mazza. Let's go! Allora, in mattinata una fedelissima di Matteo Renzi, fedelissima di Matteo Renzi, in realtà non è fedelissima di Matteo Renzi, fedelissima del potente di turno, come dire, no? Perché prima era fedelissima di un altro, prima era fedelissima ancora di Bersani, eccetera, eccetera. Fedelissima dell'attuale segretario del PD, come la signora Pina Picerno, europarlamentare. Cioè, Pina Picerno, parlamentare, ha detto una cosa che per me è anche giusta, non è che è sbagliata, ha detto una cosa. Però, insomma, è curioso, tempo fa non l'avrebbe detto, diciamo. Siccome adesso il sindacato è in lotta con Renzi, e Renzi come fa benissimo, anche se dovrebbe poi mettere in pratica le cose che dice, adesso gli uomini di Renzi vanno dietro e la sparano grossa. Ha detto la Camusso è stata eletta con le tessere false. Premessa, per chi interessa questo argomento, la Camusso ha sostenuto che Renzi è stato messo lì dai poteri forti, dai famosi poteri forti. Picerno. Allora, io potrei ricordare, diciamo, che la Camusso... No, non lo possiamo ricordare perché abbiamo finito. La Camusso rappresenta un potere forte, secondo lei? La Camusso, diciamo, io potrei dire, non lo farò, che la Camusso è eletta con tessere, diciamo, false, o che quella piazza è stata riempita, diciamo, con Pullman pagati, non lo farò. Beh, non lo farò, ma in realtà lo fa, cioè... È un gioco per... No, non voglio ricordare che... Però quello ha ammazzato il padre, potrei ha ammazzato la madre. Potrei dire in polemica che è stata eletta con tessere false. Questo diceva, non so. Vabbè, cosa c'è di altro oggi? Beh, un sacco di roba, un sacco di roba. Che mettiamo? No, mettiamo Sgarbone, vai, mettiamo Sgarbone, poi abbiamo già un ospite caldissimo. Sgarbone che ha parlato della trattativa più volte da noi, anche qui alla Zanzara, ha detto che lui ha sentito i nastri di Napolitano con Mancino, in cui si spiegavano alcune cose, si diceva che Ingroia, i magistrati erano dei coglioni, degli imbecilli, eccetera, eccetera. E stavolta ha detto un'altra cosa, li ho ascoltati quei nastri, cioè i nastri distrutti, perché? Sentite. Io sono, ho avuto un, come dire, incontro amoroso con una fidanzata di uno degli uomini che hanno trattato i nastri, sai che i nastri qualcuno li ha sentiti? Certo. Ebbene, questa ragazza, poveretta, è una brava ragazza, lei non veniva con me per parlarmi dei nastri, ma tra un nastro e l'altro... mentre ci abbracciavamo mi ha raccontato quello che suo marito aveva capito, per dire come l'ho saputo. Vabbè, Avito, dai, su, ma basta cazzate. Però una volta viene a dire che i nastri li ha ascoltati, adesso viene a dire che in realtà il contenuto dei nastri, cioè i famosi insulti di cui ci hai parlato, di Napolitano ad Ingroia, di Matteo eccetera, in realtà te li avrebbe raccontati uno con cui hai scopato. Dai, insomma, sto scopato, poi bisogna vedere, ovviamente gli incontri amorosi di Sgarbi sono tutti da verificare, secondo quello che dice lui stesso, cioè, per cui sono derelato da una presunta fidanzata di uno che ha ascoltato i nastri. E dai! Vabbè, abbiamo con noi un sindacalista. Beh, un sindacalista agguerritissimo, Giorgio Cremaschi, buonasera. Buonasera a voi, buonasera, buonasera. Eccoci, ecco. Cremaschi, oggi lei non è più nulla, non è più manco nella fiomma, è un semplice cittadino, è in pensione da quanto? Sono in pensione dall'anno scorso, sono iscritto al sindacato pensionati della CGIL. Senta, ho ma... 66 anni, credo sì. che sia l'età giusta per farlo. Beh sì, non c'è dubbio. Scusi un attimo Cremaschi, ma al di là della sua pensione, poi parleremo di quella di Bonanni, perché oggi è scoppiato un caso clamoroso, il segretario della CISL sì. che è andato in pensione con un massimo di stipendio di 336.000 euro, poi ne parleremo. Ma guardi, non voglio perdere tempo, è uno scandalo. È una vergogna? Ma come è stato possibile, scusa? È una vergogna quando si decidono, quando si copiano troppo le imprese, così come i manager si danno i super bonus quando le aziende falliscono e loro guadagnano ancora di più e lei può farmene un elenco più lungo di quello che posso farne sì. io, così fanno male i sindacalisti quando riuniscono le loro segreterie e si aumentano gli stipendi, o forse senza neanche riunire le segreterie, non lo so. Scusi, ma trovo quei soldi che lì... sia un sistema indecente. Cioè, sì, scusi, Bonanni è stato indecente allora? Io non voglio, assolutamente sì, non voglio essere assolutamente paragonato. Non lo dico perché io ho fatto una vita di attività, non di lavoro, perché il lavoro vero è quello di fonderia, quello delle commesse, eccetera. Noi facciamo attività anche faticose, spesso ingrate, ma non è la stessa cosa. Cioè, secondo lei Bonanni dovrebbe vergognarsi di questa roba qui? Ma io penso che uno che è stato con i lavoratori deve andare in pensione con la pensione media dei lavoratori, l'impiegato. Ecco, io penso che sia giusto così. Cioè, no, ma le ripeto, dovrebbe vergognarsi di essersi alzato lo stipendio fino a 336.000 euro? Oh, beh, certo, la vergogna è sempre soggettiva. Io diciamo lo considero sbagliato. Così ma come è stato possibile che nessuno prima ha detto nulla tra quelli della CISL, eccetera? Cioè, uno riesce a alzarsi lo stipendio da non so lo qua. Lo so, questo è uno dei problemi veri del sindacato, ma di tutti, ma nessuno dice nulla. Cioè, questo è il problema delle grandi strutture che si costruiscono sulla fedeltà ai capi e poi improvvisamente le cose. Ma chi paga? Chi paga questo stipendio, Cremaschi? Chi ha pagato questo stipendio fino a qualche settimana fa? Non conosco i conti, no, questo non sono in grado di dirglielo, perché bisognerebbe vedere quali sono i conti situazione per situazione. Secondo lei dovrebbe restituire i soldi? Dovrebbe restituire i soldi? Secondo me sì, ma questo guardi, secondo me sì, farebbe bene, farebbe un bel gesto, aiuterebbe il sindacato. Più di un dirigente dello Stato, dopo aver tuonato per anni sui manager pubblici. Ascolti, proprio per non allungarci troppo su questo, io sono più incavolato di lei, anzi uso la parola di Landini che mi ha molto piaciuto oggi, incazzato nero quando è nel sindacato che avvengono queste cose, perché il sindacato è un po' come, con tutto il rispetto, è un po' come la Chiesa, quando fa una porcheria è doppia. E questa è una porcheria. Perché vabbè, un attimo solo. Gli ideali e i valori che dovrebbe rappresentare. Certo, non c'è dubbio. Un attimo solo che c'è il traffico. Di più. È la stessa ragione per cui sono più incazzato nero con Renzi che con Berlusconi. Addirittura, adesso ce lo spiega. Traffico. Un attimo. Aspetto anche da Renzi, ma Renzi fa più guai. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Vabbè, Cremaschi, è partita qualche manganellata, non esageriamo, su, dai, è partita qualche manganellata. No, è molto grave, no, non è vero. Ma che grave, sono cose di piazza, su, sono cose di piazza. No, non sono cose di piazza, sono lavoratori che stanno perdendo il posto di lavoro. E poi uno, guarda, in Italia tutti pensano male, penso male anch'io. Ieri il ministro Schäuble, quello delle finanze tedesco, elogia il Jobs Act di Renzi, e oggi la polizia manganella gli operai che ce l'hanno con una multinazionale tedesca. Ma che c'entra? No, non c'entra niente, però. Cioè, lei dice che sono manganelli guidati dalla Germania? No, non sono necessariamente guidati dalla Germania, però io dico, a pensare male, come diceva Andreotti, si fa peccato, ma ci si prende sempre. Scusi, ma sono manganellate politiche queste qua di oggi? Assolutamente sì. Cioè, sì, Renzi decide di dare una bastonata ai lavoratori? Beh, sì, notizia, beh, gliene sta dando in tutti i modi, questa è diciamo anche metaforica, questa non è metaforica, questa è proprio reale, sì sì, io penso di sì, io penso che Renzi non stia facendo niente per risolvere la vicenda ThyssenKrupp e penso che quello che cioè, sta ha dato disposizione alla polizia di essere duro con i lavoratori. Io penso che ci sia una catena di comando in tutte le cose, non credo che siano gli agenti che partono da soli perché hanno voglia di menare le mani, non ci ho mai creduto, ho fatto tante manifestazioni, in tutte le cose c'è sempre una catena di comando, se la catena di comando, visto che siamo sotto un ministero, arriva fino al questore o arriva fino ad Alfano, arriva fino a Renzi, non lo so. Beh, non però, so, lei l'ha detto praticamente. No, io penso che arrivi fino a Renzi, penso che ci siano indicazioni perché Scusi, Cremaschi, sono troppi fenomeni di questo tipo. Quando la Picerno, fedelissima di Renzi, dice che le tessere della CGIL sono false e la manifestazione viene fatta con i pullman pagati, e quando il ministro Boschi sostiene che è meglio Fanfani di Berlinguer, cosa le viene in mente? Che sono delle poverette. Ma non vorrei dire poverette al femminile, diciamo che sono poverette. Rappresentanti di una classe di yuppie della politica, di quarantenni spretati che si sono innamorati, ma l'ha detto mi pare lei prima, io l'ho sentita, cioè hanno una sola parola davanti, potere, e questo gli fa piacere tantissimo, per cui se domani andasse al potere Kim Jong-un oppure potesse andare al potere l'opposto di Kim Jong-un, sarebbe la stessa cosa. La signora Le Pen direbbero quello che serve. Cioè la Picerno sarebbe alla corte della Le Pen se andasse al potere, dice lei. Ma di chiunque. Però ripeto, non voglio sembrare. Quando uno parla di tessere false. Mi permetta, poi sì. Parliamo di questo. Non voglio che sembri una cosa maschilista perché è troppo facile. Perché. Vabbè, lo direbbe anche di nuovo, però il fatto che siano. Il fatto che siano delle belle donne. Questo non ci entro perché non mi piace discutere su questo terreno, mi dà fastidio. Proprio quando uno dice le tessere false, sarebbe secondo lei da portare in tribunale? Assolutamente sì, io penso di sì. Cioè la Camusso dovrebbe portare in tribunale la Picerno? Assolutamente sì, anche perché problemi ci sono stati. Ne abbiamo parlato prima, quindi io non credo di essere sospettabile di simpatie per Renzi, per il governo. Sto passando questi giorni da militante di base in piazza in tutte le manifestazioni possibili e penso che il governo e i suoi stiano semplicemente usando strumentalmente le contraddizioni e anche le porcherie come quelle che abbiamo parlato prima del sindacato per difendere la causa loro. Ma è un governo di destra questo qua, secondo lei? Sì, assolutamente. Beh, guardi, destra e sinistra in Italia, diciamo che è reazionario. Governo reazionario. Sì, preferisco reazionario perché è un termine tecnico preciso, cioè sta portando le leggi tutte indietro a prima. Se vuole, non credo che c'è tempo adesso. No, Parenzo, voglio sentire Parenzo. Per ogni legge le posso dire dove l'ha riportata indietro. Parenzo. No, io credo che il sindacato si sente attaccato. Infatti io queste cose qui delle tessere l'ho sentito lì da Goracchio stamattina, ma se si sente attaccato il sindacato è giusto che chieda conto da un punto di vista politico di quello che ha detto l'onorevole Picerno. Se è vero, se è falso quello che ha detto. Nel merito però ha ragione il compagno Cremaschi, devo dire, mi dispiace dover dargli ragione che alle volte abbiamo litigato, ma qui non si tratta di manganellatine come dici tu, caro il mio prepotente. Ma sono quattro manganellate, dai. Qui si tratta, ma che c'entra la prepotenza? Lei tu scambi le idee con la prepotenza, che stracazzo c'entra? Io sto dicendo lavoratori. E beh, allora che c'entra? Se un lavoratore fa una cazzata in piazza, fa una cazzata in piazza, anche se è lavoratore o non lavoratore, che cosa c'entra? Scusa. Ma qui la cosa è serissima. Ma che è serissima, sono quattro manganellate. Non sono degli eversori con il viso coperto che mettono a ferro e fuoco la città, sono degli onesti lavoratori. Ma che c'entra? Ma cosa c'entra? Tu che parli di manganellatine, con quel microfono in mano a tempo indeterminato, ma ti devi vergognare. Senti, o la finisci con questa storia a tempo indeterminato o ti piglio a calci in culo. Cremaschi, gente che perde il lavoro. Parliamo di cose serie, non di cazzate. Gente che ha perso il lavoro. E allora, se fai una cazzata e entri in un posto dove non devi andare, va bene lo stesso, se perdi il lavoro. Non hanno fatto nessuna cazzata. Ma sì, pare di sì, secondo la polizia. Secondo la polizia hanno fatto cazzate. In piazza, tranquillamente. Hanno anche tirato della roba addosso alla polizia. Non hanno tirato nulla addosso. Allora, manganellati, come dice Cremaschi, perché ha voluto Renzi. Perché lo vuole Renzi. No, Renzi non ha voluto. Cremaschi, chi le ricorda Renzi? Un incrocio tra... Renzi è un... Guardi, io siccome un po' di anni, molti più di lei, mi ricorda Craxi prima di tutto. Devo dire che il suo linguaggio è il suo... però Craxi è un'incompiuta, diciamo così. Però se uno va a leggere tutte le cose che diceva, anche la battuta che ha fatto due giorni fa, no? L'occupazione, io mi occupo dell'occupazione, non dell'occupazione delle fabbriche, mi è venuto in mente perché la fece esattamente Craxi del 1900. E la Boschi che dice di preferire contro Berlinguer. E la Boschi, beh sì, ma diciamo c'è una linea. No, secondo me Fanfani è troppo sinistra per questo governo. E chi c'è? Chi è? Beh, Fanfani è troppo... Ma allora, uno è Scelba, sicuramente. Scelba, perché, addirittura, l'uomo è... Sì, beh, Scelba, appunto, Scelba, durante l'epoca del governo di Scelba, lui era ministro dell'interno, però ormai aveva un ruolo più vasto. C'è Alfano diciamo, come Scelba. No, beh, Alfano, beh, sì, assolutamente. Stiamo andando in quella direzione, guardi, ce ne sono troppi gli episodi. Ma che direzione? Perché? Due manganellate in piazza, Cremaschi. Ma prenda atto che ormai è tutto finito. Tra GR, borsa e pubblicità, qui non si parla mai. Questa trasmissione è massacrata. Maglietta di Radio 24, se mai voglio la maglietta dei razzi, la sto aspettando, cioè la maglietta Radio 24, ma che ci devo fare con la maglietta Radio 24? Voglio la maglietta dei razzi. Sono tempi duri, non tanto per noi, che ne frega niente, nulla, zero. Allora ragazzi, in questo intervallo lunghissimo come al solito, ho riflettuto bene su alcune cose. No, intanto risentiamo Landini, uno dei protagonisti di oggi, il capo della FIOM e anche uno degli astri nascenti della sinistra antirenziana, chiamiamola così, in odore di diventare un capo politico, anche se lui nega ovviamente, il quale dopo aver visto quello che è successo in piazza oggi, quelle che dico io, le manganellate, qualche manganellata dei poliziotti agli operai nei cortei di Roma, ha pronunciato queste parole durissime. Sentiamo. Questo paese esiste perché c'è la gente che lavora, dovrebbero chiedere scusa alla gente, capisci? Altro che palle, Leopolde e cazzate varie. Basta, basta slogan, basta! Hanno rotto le scatole, questo è il problema. E dobbiamo prendere anche le botte, noi che paghiamo, noi che lavoriamo, dobbiamo essere anche picchiati da chi? Da altre persone che per vivere debbono lavorare? Ma che diano gli ordini di colpire quello che c'è da colpire? Cazzo, in un paese di ladri, di gente che evade, di corruzione, se la vengono a prendere con gli unici onesti? Ma dove cazzo siamo messi? Basta, eh! Deve rispondere adesso. Siamo noi che paghiamo le tasse, paghiamo questi e paghiamo quelli che sono là. Basta. Vedete al ministero Landini. Certo, ma anche il governo. Dico una parola alla presidenza del Consiglio, anziché fare slogan del cazzo, dico una parola di quello che sta succedendo. Che si vergognino. Ci hanno a chiedere scusa ai lavoratori. Scusa ci hanno a chiedere. Allora vorrei dire a Landini, modestamente, che non ci sono solamente i lavoratori della Thyssen, cioè ci sono in Italia migliaia di aziende che falliscono ogni giorno, di piccoli dipendenti, e che non vanno a cercare il supporto dello Stato, la gente si rimette in gioco, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui non c'è solamente, no, non ci sono solamente quelli della Thyssen innanzitutto che falliscono. Primo. Secondo, pare che, secondo la polizia ovviamente, cose tutte da vagliare, i manifestanti hanno tentato di forzare il cordone di poliziotti per andare verso la stazione Termini e occuparla. Sono stati i manifestanti ad andare verso il cordone degli agenti lanciando oggetti e ferendo un funzionario e tre poliziotti che li hanno dovuti contenere. Dunque si tratta di un contenimento, non c'è stata nessuna carica, nessuna. Questo secondo la polizia, poi vedremo le cose, le interpretazioni e tutto. Allora io lo voglio dire chiaramente qui. Grazie ai manganelli, grazie ai manganelli è stata impedita l'occupazione della stazione Termini e dunque il disagio dei viaggiatori, che è importante come e quanto è importante come e quanto la causa degli operai. Mi dispiace, ma è così. Grazie al contenimento, se è vero quello che racconta la polizia, se sono vere le ricostruzioni, grazie al contenimento, e io dico ancora grazie ai manganelli. Non è che in Italia si spara, ci sono i manganelli ogni tanto. La polizia usa la forza, grazie a questi manganelli è stata impedita l'occupazione della stazione Termini. E dunque un disagio per i lavoratori, disagio che è importante quanto la causa degli operai della Thyssen, quanto quella causa lì è uguale. Anche tu che viaggi saresti stato incazzato come una belva se alla stazione Termini oggi non ti avessero fatto arrivare a Padova. Saresti stato incazzato come una bestia. Magari mi sarei un po' arrabbiato, ma avrei capito le ragioni. Beh, certo, sì. Io mi sarei incazzato come una bestia. Io quando mi è capitato di imbattermi in alcuni scioperi, posso essermi seccato in quanto lavoratore che usa il mezzo pubblico, ma capisco le ragioni di chi sciopera e di chi perde il lavoro. Ma quello va bene, ma le ragioni va benissimo. In un paese normale uno perde il lavoro e dopo un po' lo ricollocano. Vabbè. Qui non è così. Vabbè, qui non è così. Io ho visto della gente col sangue sulla testa. Vabbè, il sangue, i manganelli provocano sangue ogni tanto. Mi dispiace per te se non lo sai. Più rispetto, ma persone. Se tu fai una cosa che non devi fare, se vuoi andare ad occupare qualcosa, ma non si capisce perché poi tu quando ci sono i cortei della NOTAB sei così duro, però, Ma che diverso di cosa? Esattamente così, perché è un po' diverso, diciamo, questi signori qua a viso scoperto manifestano allora i loro diritti e vengono pure manganellati. Ma che c'entra? Ma manifestano i diritti? Ma nessuno impedisce in Italia, nessuno impedisce di manifestare. Radicalmente diverso. Vabbè, diciamo. Ma tanto non c'è niente da fare. TG3. Ladies and gentlemen, e adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. La polizia carica gli operai della Thyssen che manifestano a Roma, diversi feriti, ladini picchiati senza motivo, del Rio Alfano riferirà entro poche ore. Scontro tra PD e CGIL, Camusso accusa Renzi di essere al governo grazie ai poteri forti, Picerno replica e lei eletta con tessere false, poi la marcia indietro. I comuni al governo con la manovra rischiamo il dissesto, Renzi i saldi non si toccano ma disposti a discutere, faremo una local tax al posto di troppi tributi. Violante rinuncia alla candidatura alla Consulta e parla di deriva che offende le istituzioni, i 5 Stelle aspettiamo un segnale su nuovi nomi. Distrutta dal terremoto in Emilia, un'azienda risorge producendo un dispositivo per il trasporto dei malati deboli, diventa eccellenza italiana. Dalla Siria e dal Kurdistan iracheno arrivano i combattenti Peshmerga per difendere Kobani, la città da settimane l'ultima trincea per fermare il califfato. Una ragazza gira un video per dimostrare quanto sono moleste le attenzioni maschili, proposte ed apprezzamenti per 100 volte, sole 10 ore. Va, crozza sulla Leopolda, la sinistra. Sentite. Alla Leopolda si parlava di tutto, si poteva dire tutto, tranne la parola sinistra. Non si poteva dire la parola sinistra. Per dire che il bagno era in fondo a sinistra, ero obbligata a dire vai in fondo, gira a destra e poi cammina all'indietro. Che a un certo punto hanno fatto entrare anche due operai della Thyssen, ma solo per vedere come erano fatti degli operai. No, guarda, sono come noi, poverini, avranno sete, provate a dargli una ciotola. Ma lo bevono il latte gli operai? Morderà mica? È castrato? Ah no, no, ce li ha i coglioni, e non lo vedo da come gli girano. Bari, buonasera. Buonasera. Dimmi. Cruzani, ma non può sempre giocare con i sentimenti delle persone. I sentimenti? Quali sentimenti? Scusi, cosa c'entrano i sentimenti? Ma certo i sentimenti, perché disperazione. Lei dice che è giusto che prendo manganellate, magari... Io non ho detto che è giusto prendere manganellate. Non no, ho si rischiano sì, perché ho, ho detto che se capa, uno dico, vabbè che sì, ma voglio dire con la il vecchio Cossiga con la capa diceva ai suoi uomini sì. Fate casino per scatenare eventualmente la reazione delle forze di polizia. Chi me lo dice che non fanno ancora così? Io non lo so se fanno così, trovo poi, anche assurdo, trovo anche no, assurdo. Ma fammi finire, mi faccio finire, sono vigliacchi perché con i manganelli sì. Gente a mani nude a volto scoperto sono dei vigliacchi. Ma quelli sono poliziotti, ma sono poliziotti, devono stare con il casco e col manganello. La polizia ha il monopolio della violenza, sempre, è sempre stato così. Di che sta parlando? Di cosa sta parlando? Della forza, è provocata, perché se ci sono delle persone che sono a volto scoperte, non stanno facendo null'altro, non stanno distruggendo niente, stanno andando a mettersi magari per far vedere appunto le loro facce che sono disperate, sì. Tu non puoi sparcargli la testa a manganellate. Guarda, sei un allora, pezzo di merda vigliacco se fai così. Allora, Salvatore, prima cosa, se qualcuno vuole entrare a casa sua, lei che cosa fa? Se qualcuno cerca di entrare a casa sua, di forzare la porta di casa sua, lei che ma cosa fa? Nessuno sta entrando. No, ma aspetta, secondo la polizia sì, secondo la polizia stavano andando in un posto pubblico, cioè tuo, mio, suo, tuo di Parenzo e suo, stavano andando in un posto pubblico dove non si può andare perché la manifestazione non era consentita. Primo, se cercano di entrare a casa sua, Salvatore, lei che cosa fa? Che cosa fa se qualcuno cerca di entrare a casa sua? No, benissimo, lei difende casa sua. Se quelli insistono, lei che cosa fa? Se cercano di forzare qualche cosa, che cosa fa? Chiama la polizia, giusto? Teoricamente dovrei chiamare cioè, lei la polizia, spera sì. Che la polizia venga e usi la forza per portare via queste persone, no, giusto? È esattamente quello che accade in questi casi. Tu vuoi andare a occupare la stazione Termini, vuoi andare a occupare un posto dove non devi andare? La polizia contiene, fa e poi, se è il caso, non è che carica, come ha detto il TG3 nel titolo, sbagliando secondo me, perché non è detto, ancora non è accertato che sia trattato di una carica, ma anche se si fosse trattato di una carica. Beh, è uguale. Ci hanno i giornalisti lì. Cruciani, la nostra storia è piena di cariche provocate apposta. Senti, per amico mio, per se vi piace tratti. Così, se vi piace così, un posto dove ognuno fa il cazzo che vuole, dove uno va a occupare la stazione Termini quando non si trova. Se vi piace così, ma beccatevi questo paese qua. A me che cosa me ne frega a me? Io sto qua nel mio studio, ma che cazzo me ne frega di quello che succede a Roma o da altre parti, alla Thyssen, eccetera. Che vuole che me ne freghi a me? Io sto dicendo semplicemente un'altra cosa, molto semplice, che ognuno in Italia può manifestare come e quanto vuole. Se tu però vuoi fare qualcosa che va oltre la manifestazione, l'occupazione, santi manganelli, arrivino tantissimi manganelli per impedire che ci siano altri casini, che la gente ci rimetta tempo, denaro. Uno può manifestare in Italia, non succede nulla, in Italia ci sono migliaia di manifestazioni al giorno, migliaia, tranne le piccole e medie imprese di cui tutti se ne sbattono i coglioni quando falliscono, chiaro Salvatore? Chiaro o no? Ho chiuso, ma non è che queste cose non le so, però voglio dire, se a me suona un testimone di Geova vostro scoperto, non lo meno, se mi viene il Black Block a casa mia, sto facendo l'esempio, se mi viene il rappresentante della Folletto, non lo meno. Ma qui non c'è nessun rappresentante, chiaro. Qui c'è gente che vuole andare in un posto, poi io non so, magari sarà stato qualche manganellato di troppo, questo è chiaro, io difendo un principio, che è quello che adesso tutti dalla parte dei poveri operai manganellati, non è così, cioè non è così, non è così. Siamo ad alti livelli qua, Ma no, da manicomio siete voi e mi ci mandate pure al manicomio oltretutto. Allora, ma io no, da manicomio è lei e tutta quanta la squadra che fa capo a lei. Allora, sul web change.org dove succedono diverse cose, in particolare si promuovono delle iniziative di boicottaggi o altre cose ancora, si propone questa volta la defenestrazione dal Parlamento europeo del nostro Gianluca Buonanno, dimissioni di Gianluca Buonanno dall'Europarlamento. Un tale Alberto Casati da Monza promuove questa raccolta di adesioni. Chiediamo le immediate dimissioni dell'eurodeputato Buonanno perché proviamo vergogna ad essere rappresentati da un politico che afferma piuttosto di essere gay e di avere un rapporto con un uomo mi butto giù da un ponte. Non sono portato. Se nella mia vita dovessi dire che mi piace un uomo, chiedo di essere ricoverato d'urgenza. Crediamo che queste posizioni in un paese civile siano completamente incompatibili con il ruolo che ricopre e non rappresentino gli italiani. Tali affermazioni, infatti, non riguardano la libertà di espressione, ma sconfinano nell'istigazione all'odio, addirittura, e sono altamente omofobe. Bah. Questi confondono le goliardie e le opinioni per istigazione all'odio. Tu sei d'accordo, Parenzo, ovviamente, no? Io mi metto purtroppo sbagliando perché sono un buonista schifoso. No, perché sbagliando? Ognuno deve difendere. Devi difendere. Sono apparentemente buono. No, ma devi difendere le tue posizioni. Confondete voi, tu in particolare, tutta quella cricca di gente lì, il valore della parola e il fatto che ci sono, ad esempio, dei ragazzi che in adolescenza si sono tolti la vita per delle battute che tu puoi chiamare scherzose. Sì. Si sono uccisi. Cioè, buon anno istiga al suicidio. Si sono uccisi. Istiga al suicidio. No, Gianluca Bonanno. Sì, come no? Hai detto no. Sì. No. E allora anche tu hai detto che le manganellate vanno benissimo. Che certo, hanno fatto bene. In alcuni casi sì. Quando ti vogliono. Quando qualcuno vuole entrare a casa tua, tu che fai? Il giochino non funziona. Non è ma che come non funziona? Funziona benissimo. Appunto, no? Perché altrimenti chiami la polizia e li fai. Nel gioco nessuno entra a casa mia. Ma è nessuno entra a casa tua perché ovviamente perché altrimenti chiami non la polizia. È un paragone stupido. Ma che paragone stupido, è un paragone ottimo. Non c'entra nulla. Senti, risentiamo buon anno però, risentiamo. Ci sono persone che sono uccise. Ma quale uccise? Ma quando mai? Andiamo. Per Putin la faresti una follia omosessuale per Putin? Ma per, no, non farei con nessuno. Ma con Putin? No, piuttosto mi butto giù dal ponte. Addirittura? No. Piuttosto che essere gay, dici? Ma per amore del cielo, sì. No, non sono portato, cioè ci sono quelli che sono portati e quelli no. Non è questione di essere portato. Cioè, meglio morire che essere omosessuale, dici tu, cioè, per quello che ti riguarda. Cioè, io un rapporto con uno, piuttosto mi butto giù dal ponte. Abbiamo anche cazzi in culo, eccetera, eccetera, no? Vabbè, ma non c'è problema. Perché c'è una cosa nuova in realtà di Buonanno, a 7 gold, Renzi fa il finocchio col culo degli altri. Vabbè, questo è normale, diciamo. Con buon anno su questo, che Renzi saluto Cremaschi di castronerie. Ah, meno male che hai detto castronerie. No, saluto Cremaschi, se vuoi dico cazzate. Saluto Cremaschi, fa a tra finocchio poco col culo degli altri. Ecco, dire. Bella chiusura di blocco. Bene. Dormo, questa è bella. Dormo quando sento i sindacati, Ottimo. Vanno in piazza quando non ne possono più degli imbrogli delle cosa succede buon anno? Dormo. Questa è la sostanza. Cioè, cos'è che la fa dormire? La trasmissione? Penso. Sento sempre le stesse cose. La cosa che più la sta annoiando qual è? Ma stiamo parlando di queste cose da 100 anni. Adesso dico 100 anni per dire. Va bene, Vittorio, provincia di Viterbo. Vittorio Viterbo, dai. Salve. Dimmi. Volevo esprimere un giudizio su quello che le ho sentito dire sugli scontri di oggi di Roma. Sì, sì. Però le volevo pure sottolineare, io non sono un omofobo, sono un merdofobo. E quindi la giudico un omuncolo spregevole. Sì. Buon lavoro, signorino. Salve. Sì, bravo. Questo si è sfogato un attimo, ha voluto fare la frase del secolo. Vittorio dalla provincia di Viterbo. Ha buttato giù questo fenomeno, questo professore? Ha buttato giù. Bene, già? Hai buttato giù o no? Fenomeno, professore? Vittorio? Sì. Ma sei ancora qui, sei? Non ho capito, che hai detto verme spregevole, che cos'è che hai detto? Ha buttato giù, coraggio zero. Giacomo, provincia di Alessandria. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Sì. Io volevo invece dirti che hai detto una cosa giustissima, hai detto una cosa, meno male che c'è qualcuno che ogni tanto ha il coraggio di dire queste cose. Quando uno cerca di entrare in casa nostra, la gente diventa feroce. E se può gli spacca la testa, però se in TV vede i poliziotti che reagiscono, ma poverini, cosa hanno fatto? Bravo Cruciani, hai detto una cosa giusta. Ma tu che mestiere fai, Giacomo? No, io ho fatto il carabiniere nel servizio di leva, mi sono trovato dall'altra parte diverse volte perché facevamo sempre ordine pubblico allo stadio, cortei, e bisogna provare quando ti dicono non deve passare nessuno di qui, non devi far entrare nessuno in stazione. Ma c'è una differenza fondamentale, ma di che parliamo? Ma questi qui non erano degli scalmanati pazzi e versori che volevano mettere a ferro e fuoco? Ma la scusa, città. Capito, il poliziotto quando si trova davanti una persona che fa? Scusi, lei è un esaltato pazzo? Ma che c'entra? Ma che vuol dire? Il poliziotto va a fare l'ordine pubblico, non gliene frega niente se quello ha perso il lavoro, se quello è un giovane. È una manifestazione autorizzata. Ma quello non c'è dubbio. Da una nota sigla sindacale. E allora? E allora? E non c'era. Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Esasperare la situazione. Ma chi ha detto? Ma scusa, ma tu sei così certo che sono stati i poliziotti a esasperare la situazione? Ero a Padova a fare dell'altro. Ah, ecco, eri a Padova a fare dell'altro. Certo, a girare con il ministro Chieco. Cioè, hai ascoltato, hai auscultato, hai auscultato a destra e a manca. Ho parlato con alcuni colleghi che hanno seguito la manifestazione. Hai parlato con alcuni colleghi. Facciamo ho parlato e ho visto i filmati del Corriere TV, Corriere.it, del famoso pugno del poliziotto al manifestante, eccetera. E siccome abbiamo di fronte un signore che è Landini, che ma che vuol dire? Ma cosa se c'entra? Landini ha già detto un sacco di oggi, ha già detto un sacco di minchiate oggi. Landini, che Renzi, le manganelle. Quella cosa lì ha detto una stupidaggine. Ah, quello ecco, ho detto anch'io che è una sciocchezza. Sì. Quello l'ho detto anch'io. La questura dice che volevano occupare Termini. Hanno fatto bene a impedire l'occupazione di Termini, sì o no? Rispondi, sì o no? Mi sono inalberato perché dire una manganellatina così quando c'è gente che ha perso il lavoro. Non c'entra niente il lavoro perso. Il lavoro perso, secondo me, è davvero. Mi fa impazzire questa cosa. Il lavoro perso, secondo te, il lavoro perso autorizza qualsiasi cosa? È una cosa marcia. Vabbè, è una cosa marcia. Vabbè, Giacomo. Non ho detto questo. Che Giacomo. Cosa. Ah, no, mi sembrava. Giacomo. Volevo dire solo in questo, hai ragione, hai detto bene, perché c'è molta ipocrisia in questo, perché se toccano noi di persona, allora vorremmo che la polizia e i carabinieri intervenisse in maniera pesante, perché se ci toccano nella nostra macchina, non c'è dubbio, la nostra casa, picchiamo addosso, cose, rincorretelo, va bene ammazzarli, che tanto va bene. Invece, quando è così, anche le cose, diciamo, dello Stato, diciamo, che appartengono a tutti, beni. Ma guarda che il 90% delle persone la pensa come noi, il 90% delle persone. Non lo so, io spero. Grazie Giacomo. Fabrizio, grazie. Treviso, ciao. Fabrizio. Buonasera, Cruciani. Dimmi. Io ho perso il lavoro perché l'azienda sta fallendo, ma per questo non vado in piazza, mi sto dedicando tutti i giorni a trovarmi un altro posto di lavoro. Sì. E la legalità e il rispetto delle regole deve essere affrontata anche con l'uso della forza, perché io sono stato all'estero e a Madrid, Parigi, Istanbul, manifestazioni di questo tipo, qua da noi fanno carezze, di là menano, ma le regole le fanno rispettare e nessuno grida poliziotti che usano manganello, sono contenti perché l'ordine pubblico viene rispettato. Quindi anch'io ho perso il lavoro, ma non vado a manifestare, mi do da fare. Sì, diciamo che sono cose diverse, io la penso come te. Guardi che anche quei lavoratori lì non è che non cercano il lavoro, eh. No, ma cioè, in Italia con questa stupidaggine, sì, per cui chi manifesta non cerca lavoro, perché questa è una puttanata, eh. Ma cosa dice? Ma gira un po' all'estero, dopo vede se va a fare una protesta a Madrid. Dice, siccome sono andati in piazza, vadano a cercare lavoro. È una delle più grandi stupidaggini che si possa dire. Vadano a cercare lavoro. Non è abituato a cambiare. Li prendete in giro due volte, come se non andassero a cercare lavoro ogni giorno queste persone. Come se non fossero angosciate ogni giorno per portare a casa da mangiare i figli. Ma nessuno nega questa roba qua, ma nessuno nega. Ma proprio, nessuno. Cattivi, ma cinici. Scusa, scusa Davide, nessuno nega che l'angoscia vadano di questa persona. Ma a cercare lavoro, ma che vuol dire vado a cercare lavoro? No, lui sta dicendo. È un disprezzo assoluto. Ma perché? Ma qual è il problema? Gente qui è disperata, ci sono migliaia di. Fabrizio vuole dire che ci sono migliaia di persone, se non centinaia di migliaia. Questi lavoratori qui, ogni giorno, quelli della Thyssen in particolare, stanno cercando di ricollocarsi. Senti, stanno cercando il lavoro. Punto fondamentale è un altro. La Thyssen, vuole chiudere questa cosa qui. Altri lavoratori non cercano il sostegno del governo, dello Stato. Ma si danno da così di salvare un'azienda. Appunto, grazie all'intervento del governo, alla mediazione del governo, questo cerco. Altri lavoratori come Fabrizio. Obama ha prestato i soldi a quel signore che si Ma io non ho detto che sia sbagliato, ho detto semplicemente che tu vai a manifestare. Obama, per la Chrysler, ha dato i soldi al governo americano. Ho capito, ma e non dite niente di quello. Ma chi non dice niente? Quando fai l'elogio l'orologio di Marchionne, un giorno sì e l'altro pure, non ricordi che quello lì quell'azienda l'ha fatta con i soldi americani che doveva restituire poi. Abbiamo detto mille volte. Quindi gli stati intervengono. Fabrizio, che vuoi dire, Fabrizio? Devo solo dire che non esiste più il lavoro che uno sta 20 anni in un'azienda, il mondo è cambiato. Lo sappiamo, ma che c'entra? E allora quando fai una manifestazione la fai come Cristo comanda, capito? Cioè come e si dice in gergo. Questo chi lo sa, chi lo dice? La questura dice che volevano occupare Termini, chiaro? Giuseppe, provincia di Chieti. Buonasera Cruciani. Oh, eccolo. Buonasera. Là, eccolo là. Innanzitutto voglio dire una cosa, aspetta Giuseppe, voglio dire una cosa, che ci sono dei signori che vendono una stampante, la stampante iSensis della Canon, mi hanno mandato una foto via Twitter, che hanno scritto sopra, Parezzo, questo è incredibile, c'è una stampante, non so in che negozio eccetera, hanno messo sopra un cartello, forse l'hanno fatto apposta, non lo so, c'è un manifesto con scritto, un cartello sopra la stampante con scritto siamo al top, con la mia foto, ti giuro, con la mia foto. Siamo al top, Canon, fotocopiatrice, stampante, scanner, fax, professionale, 189 euro. Amici miei, però mi dovete dare il 10%, perché certo. Ma scusami, siamo al top, eccetera, con tutto quanto, che siamo matti. Vabbè, Giuseppe, allora? No, Cruciani, questa sera non l'attacco, questa sera sono al 150% con te. Beh, questo un po' mi preoccupa. No, allora, questo signore qua che c'ha un cognome tipo una marca di trattore, c'ho un trattore pure io, Landini, no? Ma che Landini è una marca di trattore? Landini. Una marca di trattore, sì, perché non va a lavorare a fare il trattorista, così tutta la sua rabbia la sfoga su un trattore, lui Landini su un trattore. Vabbè, no? Adesso fa il sindacalista, Landini, per carità. No, questo signore non ha mai lavorato in vita sua, glielo ma dico io. Dice? Vabbè, avrà lavorato poco come tutti, come tutti i sindacalisti, avrà lavorato poco, dai, su un'altra anomalia assurda, ma Cruciani, il pappagallo che c'è a fianco, per piacere, non lo faccio parlare perché c'è il bip. Ok, allora sì, però parla più vicino al microfono, alla cornetta. No, volevo dire, il pappagallo che c'è a fianco non lo faccio parlare perché c'è il bip, ma può parlare quanto vuole, dai, no, sul pappagallo. Allora questi qua non si rendono conto che hanno vinto qualche battaglia, ma la guerra l'hanno persa, ci hanno fatto perdere la guerra a tutti noi italiani, io c'ho due ma figli. chi? Questi signori della FIOM e della CGIL, basta, andate a lavorare, cosa rappresentano? Rappresentano pensionati, dipendenti pubblici e clandestini e immigranti, tutti neri si vedono là le facce con le bandiere rosse, ma stiamo scherzando che andassero a lavorare, io sono di Forza Italia, se Renzi riesce a fare questo qua, questa cosa qua che ha detto, sì. A Renzi, faccio votare pure i miei figli, per il futuro dei miei figli. Comunque la cosa, il godimento più incredibile è sentire la Picerno che dice che i cortei della CGIL sono organizzati con le tessere false, cioè il tesseramento della CGIL, e soprattutto con i pullman pagati. Cioè sono le stesse frasi, quelle che ha detto la Picerno oggi, che definire donna di sinistra sarebbe troppo, perché è stata, come dire, seguace di De Mita, poi di Franceschini, per cui certamente non ha la formazione di sinistra, ma comunque sono frasi che forse nemmeno Brunetta ai tempi dei conflitti con i governi di nemmeno Brunetta ha utilizzato le frasi da Picerno, per cui io da un certo punto di vista provo un godimento assoluto quando vedo la sinistra italiana divisa tra filosindacalisti e renziani scannarsi a questo livello, cioè godo in maniera pazzesca, cioè le frasi della Picerno di oggi, pullman pagati, le tessere false della CGIL, ma sono una roba che se l'avesse detto Berlusconi, ma ci sarebbe la guerra civile, cioè la guerra civile con i carabinieri a casa di Berlusca, è così ragazzi, è così e godo. Allora, è con noi un uomo che è stato condannato a 2 anni e 6 mesi. Qui non c'è da ridere, da scherzare, Parenzo, questa è una roba seria, perché Noi anzi, tra l'altro, su questa cosa qui ci siamo spesi combattendo alla radio, io dalla parte di Minzolini, tu spesso contro Minzolini, e adesso in appello, incredibilmente, l'abbiamo detto l'altra volta, com'è possibile che i giudici in primo grado giudichino delle spese congrue e altri giudici in secondo grado in appello giudichino queste stesse spese come peculato? Cioè, questo è il punto, e se volete anche la follia della giustizia italiana. Io tempo fa, anni fa, fui aggredito perché dissi che dopo l'assoluzione in primo grado tutto doveva chiudere. Il governo Berlusconi all'epoca fece una legge, una delle poche leggi sensate che fece il governo Berlusconi, in cui dopo il primo grado, dopo la soluzione del primo grado, tutto veniva chiuso, non c'era la possibilità di andare in appello. Ma ci fu, credo, una pronuncia della Corte Costituzionale, l'inferno, eccetera, eccetera. E con noi Augusto Minzolini, buonasera. Ciao, ciao, buonasera. Eccoci qui. Allora, io voglio capire una cosa, adesso al di là di quello che... Ma i giudici ce l'hanno con te, tu che idea ti sei fatto di questa condanna? Cioè, sei la persona sbagliata perché sei diventato antirenziano e dunque il clima, cioè Berlusconi assolto, Minzolini condannato, cioè è un caso? Non lo so, guarda, io sono allibito, ti posso dire, perché quello che dicevi prima è l'elemento che a me, ho detto, lascia estremamente perplesso. Ti dirò di più. Nel senso che prima, la prima sentenza, nel primo grado, come dicevi tu, c'è stata l'assoluzione. Successivamente alla prima sentenza c'è stata anche, diciamo, un intervento, una sentenza da parte del giudice del lavoro, che probabilmente su un tema specifico come questo, è quello che ha il maggior know-how, la maggiore specializzazione, la maggiore esperienza, e addirittura il giudice del lavoro, 8 mesi fa, ha obbligato la RAI a ridarmi i soldi che io avevo anticipato. Sì, dopo sì. 8 mesi, diciamo, invece c'è questa cosa qui che cambia completamente ed è una cosa che va contro quella prima sentenza della Corte dei Conti, contro il primo grado, sì, contro la sentenza del giudice del lavoro. Al di là delle questioni tecniche, Augusto, ma non sono tecniche, sai, perché il problema è quello. E io ti ho detto, l'unica cosa che mi viene da dire, ti ho detto che rimango attonito all'inizio. Vabbè, d'accordo, è normale, quando uno viene condannato. Non succede a nessun altro. Ma in galera ci vai? No, non ci, queste cose non ci vai in galera, al massimo fai servizi sociali. Se dovesse, ma no, ma non lo so, adesso io tutto ricorrerà in Cassazione, ma sai, il problema non è galera o non galera, il problema è, ma veramente, come dicevi tu, per dirlo in maniera un po' più, diciamo, diversa, cioè dov'è la certezza del diritto in questo paese? Vabbè, quello però si può dire, i giudici di primo grado l'hanno pensato in un modo, i giudici di secondo in un altro. Ma scusami, ma io adesso riportala sul rispetto sulla violazione di una legge, cioè se tu la interpreti in un modo o in un altro, significa che anche il povero cittadino non sa come interpretare una legge, perché se la interpreta in un modo viene è innocente, se invece, diciamo, la interpreta in un altro, viola la legge. È come se per caso stai con il vigile urbano che se a uno, diciamo, non gli fa la multa perché mette la macchina là, l'altro che mette la macchina nello stesso modo, nello stesso momento, nella stessa ora, gli fai la multa, ti pare una cosa normale? No, ma a me non mi pare normale, perché ripeto, quando uno viene assolto in primo grado, secondo me la cosa dovrebbe chiudersi lì. Guarda, la patria del diritto, che sono gli Stati Uniti, di fatto ha questa regola, cioè che l'accusa non può ricorrere. Però tu pure su ste spese, leggo da qualche parte, guarda, non so se sia vero, 23 volte il consumo di ostriche, per 23 volte il consumo. Questa tu devi dire che quando poi arrivano degli avvocati, così almeno posso parlare degli avvocati, che per tirarla fuori, oltretutto un avvocato che fa parte dello studio dell'ex ministro Severino, e se quindi che in questo paese ti ho detto che conflitto di interessi, quello della RAI, del conflitto di interessi, capisci? Ma immaginate, uno fa il ministro e c'ha lo studio che continua a lavorare e fa, penso che abbia un minimo di influenza, vabbè. Lasciamo ma quello l'avvocato della RAI contro di te, dici? Quello che ha... Sì, è quella, non è che è stato, cioè è lui che ha fatto questa cosa qui, ha parlato di aragoste, io sono allergico alle aragoste. Ho capito, però pare che per 23 volte tu hai mangiato ostrica e champagne. Ma cosa? No? Ma nel senso che lì vai a vedere. Ma non tu, qualcuno. Allora, adesso mi incazzo. Lo champagne è quello che ti viene dato quando tu vai in qualunque ristorante e ti danno il frutto iniziale. Hai capito? Questo è lo champagne, secondo te? Altro te lo portano addirittura senza che tu lo chiedi. Ho capito, hanno scritto 23 volte. Ma 23 volte significa che se tu vai nello stesso ristorante che c'ha questo tipo di atteggiamento, cioè nel senso che accoglie così, ti mettono così, che vuoi? Ma io ma ti dico francamente, senti, io ma capisco, se ti condannano in via definitiva, quando tu fai un peculato, allora tu devi andare anche a vedere che cosa. Ma se tu trovi, diciamo che sono soltanto pranzi o cene, cioè immagina, cioè, allora se uno dovesse fare il peculato, non è che ti ho detto va all'ingrasso, capito? Fa altre cose. Lì invece c'è una cosa assolutamente specifica che fa qualunque direttore che c'è in questo paese, anzi ti dirò di più, io lo stesso tipo di trattamento lo avevo alla RAI, non, alla RAI, alla stampa, in cui non ero neanche direttore, perché quello che hanno dato è stato esattamente la stessa cosa, nella stessa maniera. Un bacino grosso e un abbraccio forte, ciao, ciao. Il governo deve rispondere adesso. Siamo noi che paghiamo le tasse, paghiamo queste, paghiamo il ministero Landini. Certo, ma anche il governo. Dico una parola alla presidenza del Consiglio, anziché fare slogan del cazzo, dico una parola di quello che sta succedendo. Che si vergognino, ci hanno a chiedere scusa ai lavoratori. Scusa ci hanno a chiedere. E dobbiamo prendere anche le botte, noi che paghiamo, noi che lavoriamo, dobbiamo essere anche picchiati da chi? Da altre persone che per vivere devono lavorare, ma che diano gli ordini di colpire quello che c'è da colpire. Cazzo, in un paese di ladri, di gente che evade, di corruzione, se la vengono a prendere con gli unici onesti, ma dove cazzo siamo messi? Basta, eh! Questo paese esiste perché c'è la gente che lavora. Dovrebbero chiedere scusa alla gente, capisci? Altro che palle, Leopolde e cazzate varie. Basta, basta slogan, basta. Hanno rotto le scatole, questo è il problema. Allora, Landini dovrebbe spiegare Renzi cosa c'entra. È assurdo che il governo risponda in Parlamento per quattro manganellate in piazza. Cioè, vi rendete conto il paese com'è ridotto? Cioè, un paese in cui... Ma rispondere cosa? Ma non è che su ogni cosa... Ma non è che... Perché lo dice il motto stesso della polizia, sub lege libertas, e quindi sotto la legge... Ma che c'entra? Ma tanto si sa quello che dirà, si sa quello che dirà Alfano, no? Cioè, Alfano andrà con la relazione, con la relazione della polizia... Alfano riferisca... Ma non è che si può riferire in Parlamento su qualsiasi cosa avviene nel paese. Questa mi pare un caso. Ma che cos'è? Certo, sono quattro manganellate. Ma che c'entra le scie chimiche? Che c'entra le scie chimiche? No, siccome tu artificiosamente hai sostenuto. Che c'entra le scie chimiche? Scusa, siccome tu hai sostenuto che non si può riferire su ogni cosa in Parlamento, c'è una bella differenza tra fare un'interrogazione sulle cosiddette scie chimiche e invece chiedere la verità su quello che accertata la verità, accertata la verità, certo, ma non è successo nulla in piazza, ma anche i poliziotti sono stati feriti, dice la polizia oggi. Quindi questo deve essere, a te non te ne frega niente dei poliziotti feriti, interessa solo di quattro manganellate agli operai. Quattro manganellate un corno, ma sì, quattro manganellate in un paese civile, quattro manganellate paese un civile corno. Ma come no, un paese i civile, lavoratori non di terroristi. Beh, lavoratori non terroristi, ma chi è che chiama, chi è che chiama a quest'ora? Vabbè, comunque Cruciani bastardo cornuto, tu intanto con i lavoratori che hanno preso le mazzate ci fai la trasmissione, anche tu con il tuo modo di parlare invadi e crei rabbia, se qualche volta ti prendi qualche sberla come Adinolfi, che c'entra poi Adinolfi, non mi meraviglierei, prepotente, arrogante e vile, quando sei in difficoltà scappi, un tale Camillo, ma altre mail che mi sono arrivate di cui me ne fotto totalmente, le leggo ma me ne fotto totalmente, qui non c'è niente da scappare, ognuno esprime le proprie idee e io dico che state sbagliando tutti. Perché se qualcuno vuole andare a rompere i coglioni in casa vostra, voi invochereste l'aiuto della polizia. Ma che stupidaggine! Però qui abbiamo ospite un signore che è stato nominato anche alla Leopolda, anche alla Leopolda. Quando avete dei dubbi sulla bontà del patto del Nazareno che porta alle riforme costituzionali, ricordatevi sempre che il senatore Minzolini, Scilipoti e Razzi non lo hanno votato. Ricordatevi sempre, vi tira sul morale, vi dà serenità, vi dà gioia. È vero, si è fatto il patto del Nazareno, sì, però perlomeno Minzolini, Razzi e Scilipoti votano contro lo stesso. Quindi uno torna a casa la sera e sta più tranquillo. Capito Augusto? Tu no, sei il sì. Cosa, nel senso che questo dice talmente tante palle che sbaglia, perché di fatto sia Razzi sia Scilipoti hanno votato a favore. Sì, quando dice, un sacco di ma poi a favore di cosa? No, a favore... Dice un sacco di su questo, perché cioè, uno deve stare appresso alle cose che uno dice. Sì. Ha detto una cazzata grossa come una casa. Cioè Razzi e Scilipoti hanno votato a favore hanno di cosa? Del Senato, favore. Del Senato, tant'è no? Che io a Scilipoti non gli ho rivolto manco più la parola per questo motivo qua. Vabbè, addirittura non penso che... No, perché aveva detto che avrebbe votato in una certa maniera e non ha votato più in quella maniera. Quindi lui se li tiene, lui ha fatto le riforme con Razzi, Renzi... No, con Berlusconi, Ha fatto questo tipo di riforma, va bene? Ok, allora la risposta a Renzi è questa, hai fatto le riforme con Razzi e Scilipoti. Sì, ecco, anche con Berlusconi, diciamo così, Io no, nel senso che lui sceglie, allora visto che sceglie, io scelgo quelli che lui... quelli con cui l'ha fatto. Sì, perché Razzi ti vuole accostare a quella che lui chiama intende come oscenità, no? Razzi quindi lui è osceno quanto loro, visto che io ero osceno in quanto avevo votato in quella maniera con loro. Senti, a proposito, sembra, poi ritorniamo ovviamente sulla tua condanna. A me mi viene da ridere perché non l'avevo sentita questa, ma sicuramente la polia. Ma già due volte. Che da voce alla bocca e basta. Due volte l'ha detto, tra l'altro, non solo una volta. Infatti, ma almeno qualcuno glielo dovrebbe spiegare. Io non so perché lo mandano in questa maniera, allo sbaraglio. Nei numeri lo capisco, perché probabilmente è anche il pallottoliere. Poi lo fa anche su queste cose qui, che basterebbe vedere, diciamo, gli appelli. Sì, è vero che alla fine, nonostante tutto, Razzi sicuramente ha votato a favore della riforma del Senato al 100%. Lo posso trattare, sono testimone, sono pronto, diciamo, a sfidare chiunque a dirmi il contrario. Senti, ma sembra, poi torniamo sulla tua condanna, che in realtà Berlusconi si sia accorto che forse Renzi lo vuole fregare, così dagli ultimi giorni. Hai qualche sentore di una cosa di questo tipo? Io ho partecipato lì all'assemblea, ho detto apertamente che, e lo dico anche rispetto alle vicende diciamo che hanno portato ad un aumento della tensione nelle piazze, che quello che io, mentre, che ti posso dire, malgrado, nel senso che sono critico su molte cose, quello che mi piace di Renzi è il carattere, e quindi anche la decisione, ma lui lo usa male, non c'è una priorità delle cose che si è dato che intervenga sul PIL, sui consumi o su altro, perché l'articolo 18 in un paese come questo che dovrebbe assumere non è una priorità. Diciamo, la riforma del Senato è una cosa che fa da ridere, la legge elettorale è un'altra cosa. Cominciasse a fare delle cose importanti. Oggi c'era Fitussi sulla Repubblica che diceva che lui ha accettato insieme alla Francia il diktat dell'Europa. Lui avesse ad esempio fatto un braccio di ferro in Europa, cambiando davvero la politica d'austerità, avrebbe avuto il mio voto incondizionatamente, cosa che invece lui non ha fatto, dice di aver fatto ma non ha fatto, perché quello che ha ridato all'Europa, che sono circa 4.500 miliardi, ma alla fine Berlusconi arriverà, lascia perdere però gusti dettagli, alla fine Berlusconi arriverà, però mi devi seguire, no, arriverà sulle tue posizioni alla fine Berlusconi? Cioè si renderà conto? Io posso questo problema, nel senso che non credo che sia una priorità. Senti, ma tu dopo la cosa, ascoltami, poi te ne dico una più. Se per caso Renzi vuole andare a votare, va a votare nella situazione attuale con il consultellum. Senti una cosa, ma se ti condannano in via definitiva, ti dimetti dal Parlamento? Beh, dovrei in ogni caso dimettermi, perché credo che venga previsto che c'è la decadenza. Ma perché non ti dimetti e torni alla Rai, così fai un colpo una cosa ti posso dire, ecco, parliamo di un'altra così cosa. Dai un dispiacere alla Rai, sai, a Rai torni tu. Io penso che da questo punto di vista, guarda, ti posso, dopo questa esperienza e anche questa esperienza che ho fatto, penso che davvero valga la pena che ci siano delle persone, diciamo, libere che intervengano su questi argomenti, a cominciare dalla giustizia. Quel discorso che hai fatto prima, che abbiamo fatto insieme, sul fatto che ci sia un minimo di certezza del diritto in questo paese, beh, è una cosa importante. Probabilmente come giornale, facendo il giornalista, no, non ci riesce. Dopo questa esperienza qua, torni a fare giornalista, torni alla Rai oppure no? Ma torni, cioè, nel senso, quando finisco, diciamo, questa esperienza politica, è chiaro che voglio tornare al giornalismo. Dopo questa legislatura. O quando finirà? Certo, ma vorrei tornarci, nel senso, spero di tornarci, ma io, nel senso, ti Parenzo, che dici? Aspetta, ti devi dire una cosa, Parenzo, no, aspetta. No, lascia perdere Parenzo, perché non è la giornata di Parenzo, no. La gente che la pensa come Parenzo. No, però, vabbè, aspetta, Augusto, beccatelo un attimo, sì, aspetta. Augusto, sono molto preoccupato. Perché? Molto. Perché? Perché questa volta hai drammaticamente ragione, ma sono preoccupato perché effettivamente tante volte succede che una sentenza viene completamente ribaltata in secondo grado, ma nel caso specifico è drammatico e vi do ragione a tutte e due su questa questione, e mi dispiace perché, guarda, mi sta il cuore, mi sta facendo, devo prendere una cardioaspirina. Cioè, ha ragione Minzolini a incazzarsi con la giustizia, perché... Ha ragione Minzolini, perché effettivamente... E allora battiti per qualcosa, no? No, tra l'altro io sono un particolare. Un altro particolare. particolare che è importante, perché sennò non si capisce. Tu immaginati che nel primo grado vengono sentiti tutti i testimoni, si raccolgono le prove, si va avanti per il Milan è andato avanti per un anno e mezzo. E il secondo grado un po' molto meno. E viene maturata una decisione. Quest'altra decisione viene fatta dopo quattro interventi, cioè quello che illustra per il tribunale, lo stato delle cose, poi c'è la requisitoria del PM e poi ci sono state. Ma non ti è mai venuto in mente che adesso, in parole, che adesso in mezza giornata hanno ribaltato un verdetto? Sì, lo so, ma dici che tipo di approfondimento c'è? Ma nessuno. Senti una cosa, ma io voglio capire una cosa, ma non ti è mai venuto in mente che tu adesso, che sei più o meno un cavallo imbizzarrito, adesso dico così, rispetto agli ordini di scuderia di partito, Forza Italia, il patto del Nazareno e tutto, così, cioè, è più facile, cioè, se fossi stato, come dire, un fedele, no, di Berlusconi, ho rimasto, forse non saresti stato condannato. Cioè, pensate a questa cosa. Ti faccio una cosa che è successa questa mattina, nel senso, perché io sono sempre stato così. Ad esempio, oggi sono andato a partecipare a una trasmissione e c'era Ingroia. Sì. Io sulla trattativa Stato-mafia non sono d'accordo con Ingroia se ci arriva attraverso la logica del pentitismo, perché quella è un'altra cosa, perché dei pentiti possono dire quello che vogliono. Ma su un dato ha ragione. Non è possibile che improvvisamente, ad un mese dalla vicenda, diciamo, della strage di Via dei Gergofili lì a Firenze, ebbene, dopo un mese improvvisamente lo Stato decide di togliere il 41 bis, che era il motivo di contrasto con la mafia, come l'articolo 18 adesso, a 300 mafiosi. Se mi spiegano questo e mi dicono che non c'è stata una trattativa, sì, ma finora non hanno avuto il coraggio di dirlo. Vabbè, ma questo che c'entra col tuo caso? No, sto dicendo dal punto di vista che io sono un cavallo imbizzarito, come dici, lo sono sempre stato. Io, no, vabbè, ma questo vabbè. Però ti è venuto in mente che adesso è più facile colpirti, cioè perché non sei dentro il patto del Nazareno, perché ti opponi a questa roba qui, c'è cioè, giudice o no, non c'entra niente. Ma io guarda, io faccio un discorso assolutamente logico, l'ho fatto sia sulla riforma del Senato sia. No, d'accordo, però. Ma io non è che sto dentro un patto meno, io se una cosa non mi convince. No, voglio capire se c'è un nesso tra questa, le tue posizioni politiche e la condanna. Non lo so, ma sai, non entro nel merito. Io che dico. Perché ne so, magari ti è venuto in mente che dice adesso mi hanno dato una bastonata perché sono un po' fuori dal patto Renzi-Berlusconi. Io no, io quell'unica cosa che non capisco è il meccanismo come sono arrivati. Sai, questo mi mette paura perché potrebbe capitare pure a te se per caso. Come no? Vabbè, ti saluto, ciao Augusto. Che volevi dire, Parenzo? Che volevi dire una cosa? Che volevi dire? No, volevo augurargli buona cena, tanto ora se la paga con i soldi suoi. Ma anche lì io. La battutina gliel'hai fatta sempre, la cena che si paga con i soldi suoi. No, aspetta, guarda che io gli ho ridato i soldi, poi è stato il giudice di lavoro a ridarmeli. No, ma questa volta sono veramente con te, perché tanto ho combattuto in modo anche duro. Sì, ma basta con le spese. Sti direttori, quando sono soldi nostri, spendono troppi soldi. Adesso al di là di Minzolini, li spendevano pure prima. Troppi soldi per le cene. Ma che cazzo è andato a fare sempre a cena? No, a pranzo e a cena. Una cosa che non mi hai fatto dire, purtroppo Roma è quella che è. Però una cosa ma che c'entra Roma è quella che è? Andate troppo a pranzo e a cena fuori. L'ultima cosa, sta agli atti del processo. Io quello che ho avuto, il tipo diciamo di trattamento da questo punto di vista, era esattamente quello che avevo alla stampa. Sì, l'hai già detto. Ma andate troppo a pranzo e a cena a carico. Ma quando uno non c'è. Oh, senti, io sono uno che sta attento alla linea. Se ci vado è perché mi ci tocca andare, se non ci andrei. Ho capito, ma tanto tutti questi salotti, rosati, e il bolognese, sempre a pranzo e a cena fuori. Che cazzo. Conosci Roma? Allora andiamo tutti a Milano, probabilmente sarebbe un atteggiamento diverso. Ah, sicuro. Roma è fatta così, dunque uno può andare a pranzo e a cena fuori a carico della collettività. Ma non dico. Ma non è che ci vai, è che tante volte, cioè non è che tu ci vuoi andare, ma sono quelli che devi incontrare che ci vanno. Okay? Ho capito, gli dici no, io lavoro, allora. Sto al TG1 a Saxa Rubra, non mi rompere i coglioni, vediamoci. Ciao, ciao. Ciao, baci. Ciao. Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide e Giuseppe, vi voglio bene. Me lo faccio da Parezzo. Amici miei, siamo al top, Non capisco lo stupore di quelli che mi insultano via tweet o via mail o altri dispositivi tecnologici infernali. Io ho detto una cosa che pensa credo il 90% di quelli che ci stanno ascoltando, il 90% di tutto il popolo della radio, che è questo, una cosa molto semplice, al di là di esagerazioni che ci possono essere state, su cui sicuramente ci saranno indagini, eccetera, eccetera. grazie ai manganelli, secondo quello che riporta la polizia, grazie ai manganelli si è impedita l'occupazione della stazione Termini. Ancora. E dunque disagi ulteriori ai disagi che già le manifestazioni giustamente e normalmente procurano ai cittadini. Questo è il punto fondamentale. Se tu vuoi forzare un blocco della polizia, se tu vuoi, a meno che non ci sia stato un attacco, diciamo, alla cilena, cioè ci sono i lavoratori o chiunque al posto dei lavoratori fermi, immobili, e i poliziotti caricano all'assalto all'arma bianca. Questo non è avvenuto. Questi hanno cercato di forzare un blocco. Dopo vari spintoni, eccetera, è partita qualche manganellata, forse anche un pugno, ma in realtà poi il pugno ha perso il caschetto. Succedono i soliti parapiglia che ci sono in questi casi, roba normale. Su cose del genere bisogna impegnare il Parlamento. Beh, certo, normale, ma di corno. Cosa parliamo? Del nulla, zero. Normale un corno proprio. Renzi spieghi le botte. Landini dice: Renzi spieghi le botte. Ma quello che ne sa di quello che accade in piazza? Non sa nulla di quello che accade Alfano in piazza. Alfano spieghi quello che è successo. Il capo della polizia riferisca ad Alfano e si ricostruisca con un'indagine quello che è accaduto. Questo è evidente. Quattro persone ferite, quattro operai feriti. E anche poliziotti feriti? Sì, quattro operai feriti. No, anche poliziotti che sono operai come gli altri, capito? 500, sono operai bello, come gli altri, chiaro? Io ho sempre difeso i poliziotti. Ma che hai difeso? Hai detto una cosa violenta. Ma e quale stupida, violenta? Ho semplicemente espresso il mio parere. Molto sei tu che molto sai dire, stupida, sai dire solo, sai reagire solo in questo modo, capito? Beh, hai detto una cosa stupida. Vabbè, Alessio, evidente. Provincia di Pistoia, un attimo, poi cerchiamo di fare un collegamento. Un secondo con Alessio della provincia di Pistoia, dai. Molto stupida. Sì. Pronto? Stupido. Sì, dimmi Alessio, dimmi. Ciao, buonasera. Ti volevo dire che questa volta sta cacato fuori dal vaso. Ho cacato fuori dal vaso. Sì, vabbè, sì, ma può darsi. Sei vergognoso. Ho espresso la mia idea, capito Alessio? Sì, la tua idea fa vergogna alla razza umana. Vabbè, fa vergogna alla razza umana. Se Parenzo si accoda a questa roba qui, capito? Dicendo che fa vergogna alla razza umana. Questa persona intelligente, sì. E tu te dovresti rendere conto da solo e tu dici delle stronzate? Sì, Alessio, sì, prosegui, vai. No, poi... Ma che giochino vuoi fare, Cruciani? Vai, prosegui, vai, facendo parlare, hai finito? Dimmi se qualcosa, chiedi scusa. Ah, vuoi lo scontro, chiedo scusa a chi? A chi devo chiedere scusa io? A questi che hanno preso le manganellate, hanno preso. Ma mi dispiace che hanno preso le manganellate, è normale che mi dispiace che hanno preso le manganellate, non è che esulto perché uno prende le manganellate. Come una sciuha. No, ti sbagli, Alessio, ti sbagli. Senti, non dire, tu non dire cazzate, io non ho goduto per... Fatto, non vale il giochino. Senti, amico mio, fra poco metto la musica e ti mando a fare in culo, perché io non ho esultato per nulla. Ho detto viva i manganelli quando ho detto viva, certo, ma non esulto. Ma non esulto con le parole. Ma quale parole? Io ho detto viva i manganelli quando impediscono che si creino disagi e quando uno vuole andare in un posto. Ma cosa ho detto? Cosa? Ma non sai nemmeno quello che. Ma cosa ha sentito? Cosa? Non hai nemmeno. Ma stai dicendo delle cose assurde, Alessio. Allora. Sì, ma infatti, molti la pensano come me, Alessio. Viva le manganellate. Certo, viva le manganellate. Certo, non c'è dubbio, ho detto e questo. Allora che parli, ma che c'entra? Mica sono contento che uno ha preso una manganellata in fronte, però. Uno cerca di forzare un blocco, retorica, giochi di parole. Ma scusa, quattro persone all'ospedale. Anche i poliziotti sono stati feriti, Alessio. Questo non lo dici però, Alessio, provincia di Pistoia. Guarda, a me poliziotti quando picchiano lo global allo stadio, io sono stato di colpo. Ah, è diverso, il no global allo stadio è diverso. Certo, è diverso. Quelli sono minchioni. Questa gente deve portare Catrina a casa per mangiare. Certo. Ma cosa cazzo c'entra? Ma non c'entra una sega. La volete finire con questa retorica? Un coglione, uno che lavora in acciaieria non fa un cazzo altro. Quello sa fare. Ma c'è migliaia di persone che perdono il lavoro ogni giorno. Ma come cazzo lo ritrova? Senti, ci sono state quattro manganellate in piazza. Viene impegnato il ministro degli interni, il capo dei sindacati che invoca Renzi. Per il tuo diritto di lavoro. Ma cosa c'entra il diritto di lavoro con la manifestazione e col forzare il blocco per andare a occupare la stazione Termini? Ma ragazzi, ma state scherzando o no? Facessero. Ma che cosa devono fare? Ma vengono a casa tua, che cosa fai? Se ma vengono a casa tua. Vengono a casa mia, glielo do da mangiare a questa gente. Ah, gli dai da mangiare. Ma io, se qualcuno viene a casa mia a rompere i coglioni, chiamo la polizia. Ma di che stai parlando? Vengono a rompere i coglioni. giovani vengano a reclamare un posto di lavoro. Non ma dove reclami? Per strada il posto di lavoro? Dove lo reclami il posto e di lavoro? Reclamare sì, vai per strada lavoro. E reclami il posto di lavoro. Dove c'è devi una. Devi andare a reclamare il posto. Senti, di lavoro. Comunque va benissimo. Le manifestazioni vanno bene, sono ottime, stupende, meravigliose. Basta che però si attengano alle regole esistenti. Se tu vuoi andare in un posto dove non puoi andare, se vuoi occupare in un posto che è pubblico, sì, i poliziotti fanno bene a resistere e poi a un certo punto anche a manganellare, chiaro? Ma che cazzo fanno bene a manganellare la gente che cerca lavoro? Ma io non ho detto. Ma che tu c'entra quelli? Che cazzo a dire queste cose? Allora, è incredibile. Tu ti devi vergognare. Va bene, d'accordo, Alessio, mi vergognerò. Difficile, ma cercherò di vergognarmi, ciao. Proviamo a fare sto collegamento, dai. Presidente Ferrero, vediamo se ci risponde. Presidente! Non sento niente, chi è? Radio 24! Letto Ir? No, è che Ausilio? C'è? No, ma che c'entra Toir? Moratti? No, sono Cruciani, Radio 24! Ma come va? Che vuole? Come? La penna, no. Il microfono suo lo rimettesse al cassetto. Silenzio, sciopero! Però me giro i coglioni. Ma dove si trova in questo momento? Beh, non si capisce niente come al solito. Non si capisce niente, sono davanti al cancello di San Siro. Ma si gioca stasera? Perché gioca a San Pedoria. Ho capito, ma come? Ma come? Che famo tre gol. Vabbè, d'accordo, presidente, poi però vedremo. Non me fanno entrare. Ma come non? Ma come non? Aprite questo cancello. Ma scusi, presidente. Aprite. Ma come non la fanno entrare? Aprite. Ho chiamato tutta la dirigenza all'Inter, ma all'asiatico e alle Filippine. Ma che l'asiatico? Lei ha detto che è filippino invece di indonesiano. Vabbè. Indonesia, non è le Filippine. Faccio Moratti, non risponde manco lui. Ma dove si trova adesso? Non ho capito. Sto davanti al cancello. Ma come al cancello, presidente? Moratti, caccia via tutti che li ha presi a fa pure questo gladiatore al cancello. No, però scusi. Aprite, fate qualche cosa. No, come presidente, lei ci sta dicendo che fuori dal cancello non la fanno entrare. Sto qua davanti al cancello e non mi fanno entrare. Sono il presidente da Sampe. Ma lei a San Siro, manco ci doveva andare dopo quello che ha detto su Toir. Ma no, sei qua a Sampe. Aspico l'intervento delle forze armate. A sinistra, ma quale forza armata? Vabbè, stai? Vabbè, sfumiamo. E tocchiamo l'aeronautica militare. Vabbè, chiami quello che e vuole. Faccio paracuta in campo. Allora, pare che il presidente Ferrero Parenzo sia assediato fuori da San Siro. Cioè, assediato, non riesca a entrare a San Siro. Io capisco dopo quello che ha detto sull'Inter sul filippino che invece è indonesiano eccetera, giustamente qualcuno dell'Inter dice ma questo che viene a fare stasera qua? Allora Lina Bologna, Lina, buonasera, finalmente. Dimmi Lina. Allora io volevo dire che veramente Parenzo io non lo sopporto più, per me è una persona ipocrita. E poi volevo chiedervi, ma su che cosa è ipocrita? Non ho capito. Ma sulla manifestazione, ma su tutto quello che dice, non sono d'accordo. Io spegnerei la vabbè, radio tutto quello quando che dice. Parla lui. Vabbè, io con lei, Cruciani, sì, sono certo. Perfettamente d'accordo su tutto quello vabbè, che poi dice. Dopo aver detto la che è d'accordo con c'è lei. Poi? E poi volevo dire a Parenzo che sì. Tanto quello sta facendo i cazzi suoi, sta parlando con altre persone, per cui non va, la sento. Va a casa sua a rubare, sì. Allora va bene, no? Ma è quello che ho detto io, quando ognuno di noi è con le nostre cose, con le nostre sì. cose, siamo tutti pronti a difendere a spada tratta sì. quello che abbiamo, no? Quando invece si tratta sì. della cosa pubblica va bene tutto, manifestazioni ma in cui ognuno fa il cazzo che vuole. Ma che scusa, ma perché non dovresti credere alla versione della polizia secondo la quale ma tu non credi alla versione della polizia, devi dire che la polizia mente, devi dire apertamente che la polizia mente. Non mi trascini nel giochino. Ma non ti trascini, quale giochino? Ma non rispondi. Non rispondi nel gioco. Non rispondi, Alberto Brescia. Ma quale gioco? Alberto Brescia. Non mi sentire. Trascini. Ma quale gioco? Non rispondi, stupida. Non rispondi, non rispondi. Alberto Brescia, sì, non rispondi. Io Cruciani volevo dire con questo mio intervento un po' insomma dissentendo da quello che sento dagli altri che intervengono. Insomma, sono pienamente d'accordo con lei. nel senso che diciamo appunto la mia opinione è un po' che oggi siamo sempre un po' anche in questa situazione qui, pronti tutti a difendere a spada tratta anche chi si comporta fuori dalle regole. Adesso, per carità, come diceva giustamente lei, ci sarà poi magari un approfondimento e si andrà a verificare se ci sono, come dire, state situazioni di eccesso. Ma non è successo niente. Ma... Però ecco, dico appunto, interrogarsi. Quattro operai disoccupati poi che protestavano manganellati. Tutto questo è poi, la vulgata comune, no? Gli operai disoccupati manganellati dalla polizia. Tutte boiate. Esatto. Tutte boiate. E poi più che altro, poi dopo, per una situazione del genere che viene strumentalizzata politicamente, ci interroghiamo perché in questo paese non andiamo avanti a fare quello che dobbiamo fare. Cioè, bisogna interrogarsi in Parlamento, bisogna scomodare tra virgolette Alfano per una situazione del genere. Non lo so, cioè, per me è una cosa che non ha senso. In Italia ci sono le interrogazioni, quello che riferisce su questo, tutte carte che vuole. Nessuno si ricorda mai di un'interrogazione parlamentare e delle risposte dei ministri. Tutte cose inutili, totalmente inutili, totalmente inutili. Vincenzo da Roma. Sì, buonasera Cruciani. Quando la finiremo con questa roba qui? Il ministro risponde in Parlamento. Ma cosa vuole che... Ma il ministro in Parlamento leggerà la relazione della polizia. Poi ci saranno quelli dell'opposizione che diranno vergogna, manganellati questi, eccetera eccetera. Gli altri che diranno va bene, la polizia ha reagito bene. Tutto normale, cosa che stiamo dicendo adesso. Stessa contrapposizione dice adesso. In Parlamento perdite di tempo, ministri, carte, tutto inutile. Chi c'è? Vincenzo, Roma. Sì, Vincenzo da Roma. Vai. Buonasera, senta, io sono in disaccordo con lei naturalmente. Vabbè, ma naturalmente un cazzo, perché c'è un sacco di gente che è d'accordo con me, scusi, naturalmente. No, no, perché... ma lei non è scontato, fa, non è scontato. Ma lei cioè... ha mandato due volte in onda sì. Quello che il signor Landini ha detto con sì. la voce anche tre volte, rotta, no, due, tre. Rotta tra la rabbia e il pianto. E me che c'entra, scusa, perché uno piange e reagisce in quel modo, ha ragione per forza, non ho capito. No, se, non uno, ragione, se uno no, reagisce non in quel ragione, modo, ha ragione ma... per forza. Dice stronzate no, su Renzi, ha ragione. Ma di che parliamo? Ma, non dice, ma no, come di che parliamo? Lei se ha avuto il coraggio e la faccia, che non credo avrà mai, di dire delle cose. Cosa? Non posso prendere il treno perché delle persone occupano la stazione o casa mia. Che no, io ho detto non mia. È nessuna boiata, sì, non no, è nessuna boiata. Ho detto che se la polizia ha impedito l'occupazione di una stazione, sì. I diritti delle persone che partono e si muovono sono gli stessi, bisogna che si difendano allo stesso modo rispetto a quelli che vanno in piazza, hanno la stessa cazzo di dignità, chiaro? Sì. Borsa. No, è così. No, no, non è così. Aspetta, perché... torno con lei, non si preoccupi. Cruciani, non devi dire cazzate. Più generosa del mondo, abbiamo sollevato, io a casa ce l'ho quattro di questi ragazzi che per me sono umani. Poi si è scoperto che in realtà i filippini erano due, secondo quello che ci raccontava ieri Ricky Tognazzi, era la voce di Massimo Ferrero e... Salvini e gli zingari, rom, immigrati eccetera eccetera. Sentite. Ci sono gli italiani disgraziati, per carità di Dio, ma su certe linee, a Roma, come a Milano, come a Torino, il problema sono i rom e gli immigrati. Quindi più si controlla l'arrivo in Italia di rom e di immigrati, meno rotture di scatole ci sono. A Milano, sulla 90-91, pisciano sull'autobus e non sono anziani o studenti italiani, sono immigrati e tornassero a casa loro a pisciare sui loro di autobus. Rimettere il bigliettaio sui mezzi pubblici, sali solo se hai biglietto, altrimenti non sali proprio. Secondo, rimettere agenti della polizia locale e della polizia di Stato che viaggiano in metropolitana e sugli autobus, ma soprattutto certezza delle pene. Lo zingarello minorenne che non può finire in galera, numero uno, lo togli ai genitori come farebbero ai figli degli italiani. Numero due, anche se ti scippa 12 anni, lo metti in istituto di pena, chi se ne frega, perché se uno impara a rubare a 10 anni andrà avanti a rubare per il resto della vita. Allora, a proposito degli autobus, però c'è una questione molto semplice. Mi hanno raccontato una quantità di errori, di cose. Sì, che... va bene, i rom, i migrati non sono solo quelli che creano problemi sugli autobus. No, ma cose dette in libertà. Intanto esiste il carcere minorile per tutti, primo. Quindi non è che quello che ha detto Salvini, cioè esiste carcere. No, diciamo minorile, che da noi c'è una legislazione molto, molto aperta. Il carcere minorile, tu ci sei andato, forse, ma esiste e c'è, e quindi le pene vengono applicate. Esiste una struttura di carcere minorile. No, però c'è un'altra cosa che bisogna dire sugli autobus e i biglietti, no? No, è vero, il bigliettaio è anche giusto. No, è vero che su alcune linee a Milano, per esempio, appunto la 90, eccetera, se tu sali è un casino. Cioè, se tu sali è veramente un bordello, la notte soprattutto, non durante il giorno, è un casino, e ci sono soprattutto extracomunitari. Poi, secondo me, nel 90% dei casi non succede nulla. Però mi hanno raccontato che in alcune città del nord, adesso uno dirà il nord, no, i paesi baltici, i paesi no, scandinavi, eccetera, cioè tu se non hai il biglietto proprio non entri, cioè non entri fisicamente, cioè ti è impedito di entrare fisicamente. Io sono d'accordo con questa roba qui, non bisogna... Una cosa che farai inorridire molti probabilmente, avanti, ma, dimmi non sta cazzata, mi interessa. Dimmi. Dopo una certa ora della notte, sì, specie in alcune tratte, quelle frequentate dagli immigrati che già sì, non hanno... Non andrebbe fatto pagare il biglietto. Vabbè, ma tu sei fuori di testa. Cioè, tu sei fuori di testa, ma sei completamente pazzo. Fatto un esperimento. Ma quale esperimento? A favore della legalità. Ma che esperimento per la legalità? Ma tu, non me... In alcune tratte, specie quelle notturne, che riportano nei quartieri dormitorio delle città i migranti, sei completamente che hanno lavorato pazzo tutto il giorno. Sì, i migranti che hanno lavorato tutto il giorno, magari sono ladri anche, si non sono solo migranti. Potrebbe sperimentare il fatto di lasciarli con patto, sì, che non lordano l'autobus, ovviamente. Sì, lasciarli così senza pagare il biglietto, cioè farli entrare senza. Dopo una certa ora della notte. Tutti, ma perché solo loro, anche gli italiani allora? Dopo, però, scusa. Certo, nelle tutti gratis, tutti gratis, ah, cosa pazzesca. Ho detto negli autobus che vanno. Ma non c'entra la niente la periferia, bisogna pagare il biglietto, se non ce l'hai. Anche no, al cazzo, punto e basta. Di non farlo pagare. Amico mio, se il biglietto lo paghi, bene. Se non hai i soldi, se non hai i soldi per pagare il biglietto. Non tutti hanno il taxi o l'NCC. Ma se nessuno, se non hai i soldi per pagare il biglietto, non viaggi, non vai. Non viaggi, cioè, quindi non vai a lavorare, eccetera. Allora, mi dispiace, funziona così. Ma mi dispiace così. I paesi normali funzionano così, i paesi normali. Non funziona un cazzo. Funzionano con il gratis, non con l'autobus a gratis per gli immigrati, come vorresti tu. Molti migranti e lavoratori normali. Molti migranti, per dargli una dignità, chiamo immigranti. Sì. Attenzione, c'è una testimonianza. Anche i lavoratori. Siccome italiani, sono una persona, ovviamente. Siccome sono una persona, non sono un violento come dici tu. Molto, c'è una molto persona, ma quale violento? Dico molto quello che penso. C'è, ma renditene conto. Almeno. Senti, stai calmo. C'è, no, no, vi riporto certo, la testimonianza. Parole, ma ti prendi la devi stare tranquillo, devi stare molto tranquillo. Hai il manganello facile. Sì, nella manganello una minchia. Rosario Rappa. Rosario Rappa, stai zitto. Taci. Taci, Rosario Rappa, Rosario Rappa, che il vice di Landini, il Rosario Rappa, guarda che non mi spavento col vaffanculo, mi piace, Rosario Rappa, vice di Landini, vice di Landini, fammi parlare, Rosario Rappa, vice di Landini, stai muto, Rosario Rappa, figlio, cazzo muto. Allora, siccome comando io, Rosario Rappa, figlio di vice di Landini, Rosario Rappa, vice di Landini, dice: noi eravamo fermi, ci hanno caricato violentemente. Ovviamente è la sua opinione, no? Il vice di Landini dice: è falso il fatto che volevamo occupare la stazione Termini. Infatti siamo stati caricati dalla parte opposta di Piazza Indipendenza, secondo questo racconto, non quella che conduce a Termini. Perché vi attribuiscono questa volontà? Si devono essere resi conto della cavolata che hanno combinato, per questo si inventano delle falsità. La Digos sapeva esattamente dove volevamo andare, cioè nel posto dove poi siamo effettivamente andati, con un corteo tranquillo nonostante le botte prese. Ha visto scene di particolare violenza, la polizia ha caricato violentemente e noi eravamo fermi. Dunque, lui sostiene che la polizia ha caricato persone inermi, ferme, in sostanza che stavano andando verso Piazza Indipendenza, e la Digos lo sapeva. Dunque si dovrebbe capire da questa cosa di cosa che io ci credo assolutamente, questo Rappa, che praticamente la polizia ha visto dei lavoratori e ha deciso scientificamente di caricarli, cioè scientificamente di caricarli, perché in quanto lavoratori sicuramente prima era successo qualcosa, poi che abbiano sbagliato bersaglio non c'è dubbio. Dove andiamo? Vincenzo, c'era Vincenzo, sì, dai, Vincenzo. È sempre io, eccomi qua. Dimmi. Che le dico, già glielo ho detto quello che pensavo, no? L'unica cosa, lei confonde il fatto che io non do ragione né ai poliziotti né agli operai. Lo sciopero, secondo me, non serve ormai al giorno d'oggi più a nulla. I diritti sono stati calpestati di tutti, da parte sia quelli dei lavoratori, sia quelli degli agenti di polizia. L'Italia è un paese che a quanto pare sta rotolando, però quello che dice lei di fronte a delle parole o a delle persone che rinunciano anche alla giornata di stipendio pur di andare lì, mo non so se è il caso loro o meno, e dice no, a nessuno gliene frega un cazzo, fanno bene, io devo prendere il treno, io devo andare di qua. Boh, secondo me le parole sono importanti. Ma quale? Non ho capito bene, scusa Vincenzo, veramente non ho capito. Io ho detto semplicemente una cosa, ho detto che a parte che c'è stata qualche manganellata, non sì, è successo, ma non è morto nessuno. Primo. Oddio, quando ci sono dei lavoratori. No, ma perché? Ma non è questione di lavoratori, chiunque, esatto, lavoratori o meno, non è questione di lavoratori. Non è che chi manifesta è diverso e non ha un lavoro o è un o è uno studente diverso da un lavoratore che ha perso. Manifestazione violenta è una cosa. Non sto dicendo che è una manifestazione violenta, non ho mai detto una cosa del genere. Io ho detto una cosa molto semplice. Se è vero, poi se sarà tutta un'invenzione della polizia, allora la cosa è diversa. Se è vero che c'erano delle regole, tu non potevi andare in un certo posto e invece ci sei andato, se hai cercato di forzare un blocco, come sembra, se hai cercato di forzare un blocco, poi se altre cose in altre zone sono successe, ovviamente questo non c'entra nulla. Se hai cercato di forzare un blocco perché volevi andare da una parte dove non potevi andare, perché la polizia ha deciso che tu là non ci puoi andare, perché non sei tu che decidi di andare dove vuoi, è la polizia che decide se puoi andare in un posto oppure no. Questo è l'ordine pubblico. Se tu hai cercato di forzare quel blocco e la polizia poi nel parapiglia ha usato i manganelli, è normale che accada, non è così strano. Lavoratori disoccupati o in crisi o meno. Ma se in un posto non ci può andare nessuno, ma quel blocco lo forza un bambino, un anziano. Ma che c'entra il bambino e l'anziano? Ma bambino e l'anziano non c'erano, non c'erano i bambini, c'erano persone adulte. Paragono uno sciopero con degli operai che, se diciamo, io prendo per buono che sono tutti tranquilli, non sono dei delinquenti. Ma nessuno dice che sono dei delinquenti. Se una persona questa manifestazione io la paragono a degli anziani o ad un bambino che vuole portare un blocco, io cerco di fermarlo con le buone, non con i manganelli. Sì, ma non è che siamo all'asilo nido, cioè qui c'è una questione di ordine pubblico e i poliziotti reagiscono, punto e basta. Se lei mette davanti l'ordine pubblico a un disastro lavorativo mettere, di tutta l'Italia, ma che c'entra il disastro lavorativo dell'Italia con l'ordine pubblico? Qui bisogna gestire la piazza, non la Thyssen, non il caso industriale della Thyssen, non c'entra niente, dai, su Parenzo. Ma io non parlo della Thyssen, vabbè. Hai detto questo, viene prima quello piuttosto che la Thyssen, Parenzo? Non c'è nessun problema di ordine pubblico. Non c'è nessun problema. Perché non erano manifestanti violenti. Ha già deciso tutto. Scoperto. Hai già deciso tutto. Ma è quello che è accaduto. Quello che è successo. Va bene, ora, benissimo. Io non penso che i poliziotti siano cattivi e manganellatori schifosi. Non lo penso, non l'ho mai sostenuto. Sì. Se non altro perché mio nonno è stato questore e quindi so cos'è la polizia. Dunque? Primo. Dico semplicemente che in quel contesto là è accaduto qualcosa di molto grave che lo Stato, cioè il Ministro degli Interni, ha il dovere di accertare. Vabbè, e non si può quello liquidare. Siamo alla normalità. Perché con la solita superficialità cialtrona hai detto chi se ne frega che il Parlamento. Sì, per me chi se ne frega questo. E nessuno si ricorderà allora di quello. Nessuno si ricorderà allora di quello. Di quello. In contraddizione. Ma cosa c'è? Nessuno si ricorderà di Alfano, che cosa dice, cosa non dice, cose inutili. Le interrogazioni che ci sono state, ovvio che nessuno si ricorderà. Ma allora, è un atto dello Stato necessario. Allora, quindi non va fatto. Mettiti d'accordo con te stesso. No, non va fatto nulla. Non va fatto nulla. Certamente Alfano non deve andare a riferire su queste cose qua. Ma ci sarà un'inchiesta della polizia, le solite cose. Arrivederci, grazie. Inchiesta interna della polizia, certo. Il Parlamento e in particolare il ministro degli interni. Inchiesta della polizia, punto. E il ministro degli interni che ha la competenza in un libero Parlamento funziona. Che vabbè, benissimo. Tu sai che un'interrogazione in Parlamento ha portato alla cosa incredibile, a una cosa incredibile come una inchiesta della polizia sulla partita Juventus-Roma. Sì, no, tanto per dire, un'altra cosa di oggi. Gli effetti di queste cose si possono anche discutere, quante volte succede. Va bene, abbiamo capito che sei d'accordo sul fatto che Alfano riferisca, ma io volevo semplicemente dire che è inutile. Assolutamente. Ma benissimo, assolutamente. Va bene, ma a te piacciono queste cose polverose, parlamentari? Non è che mi piacciono, sono cose che avvengono nelle democrazie normali. No, ma per carità, ma è normale. Sì, è normale, è normale anche per un piccolo incidente di piazza, vabbè, benissimo. Shaking to the rhythm till everybody's gone. Ennio Milano, Ennio. Buonasera Cruciani. Dimmi. Anche a Parenzo. Senti, intanto io sono d'accordo con Salvini, ho sentito l'ultimo pezzo di trasmissione. Su che cosa? Sugli immigrati e su tutto quanto il resto. E poi prendo la 90 e la 91 e... A Milano? Sì, tutte le sere ci sta a rischiare fare a botte. Tutte le sere. Vabbè, amico mio, però lì il problema è che non c'è controllo, non che questi salgono, che non c'è nessuno a controllare. Sui bigliettai, su tutto quello che ha detto. Comunque la mia telefonata non era per questo, così come sono d'accordo che troppe palle. Cioè, se fino a lì non puoi arrivare, ti devi fermare. Lo stop, cioè, se è rosso, è rosso per... Ma poi è chiaro che se questi qua, se alcuni stavano per strada, camminando per strada, come racconta questo sindacalista, e la polizia li ha presi di mira, non si capisce poi per quale motivo avrebbe dovuto prendere di mira, però voglio dire, la piazza può sfuggire anche in alcuni momenti e questi qua pagheranno. Ci sono, cioè, delle regole, basta. Ma sì, ma se anche i poliziotti l'hanno violata, eccetera, se è vero che tu stavi forzando un blocco, te prendi una manganellata. Ma mi sembra una cosa talmente banale da dire che mi sembra che si può scioperare in Italia, il paese dove si può scioperare in qualsiasi momento, però se fino a un certo punto per motivi di ordine pubblico non puoi andare. No, ma Landini ci sta presentando oggi. L'operaio paga di tasca sua lo sciopero, amico mio. Guarda che un operaio quando sceglie di scioperare perde il suo salario. Sì, vabbè, ma che cioè, c'entra questo? Forse voi vi dimenticate. Ma che c'entra, scusa? Che è un sacrificio, non è che dice, è andato a fare una... Ma nessuno sta mettendo in dubbio il diritto di sciopero qua. Ma nessuno sta mettendo in dubbio il diritto di sciopero. Ma non c'è soltanto il diritto, c'è da ricordare a tutti. Vabbè, ricordiamo, l'hai ricordato. L'operaio quando sciopera perde... L'hai ricordato, Gennaro da Caserta. L'hai ricordato, Gennaro da Caserta. Ma questo mai troppo. L'hai ricordato. Allora l'operaio dovrebbe andare con il forcone sotto casa del signor Bonanni, lo voglio dire in conclusione. Con il forcone sotto casa del signor Bonanni, tutti gli iscritti alla CISL, dovrebbero andare sotto casa del signor Bonanni a chiedergli conto del fatto che il capo dei sindacati di uno dei più importanti sindacati italiani per un certo numero di anni ha preso, se è vero, 336.000 euro di stipendio andando in pensione con 5.000 euro. Si è fatto aumentare lo stipendio fino a 336.000 euro. A domani, ciao. Io sento la zanzara la sera alle 6:30. Sì. La notte risento la replica, è da scemi, eh! È abbastanza, sì. Mi diverte da morire. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ciao cani, ciao bestie. Radio 24, la passione si sente.